Hadith numero 21. Da Abu Amr, ma è stato detto Abu Amara, Sufyan bin Abdullah, che Allah sia compiaciuto di lui, disse: dissi, o apostolo di Allah, dimmi un detto riguardo all'Islam che non posso chiedere ad altri che a te. Disse: di amantu billah, e poi agisci con rettitudine. L'ha riferito l'imam Muslim. Amantu billah significa credo in Allah.